ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Nubifragio a Milano, esondano il Seveso e il Lambro, disagi per la circolazione, ma ora l'allarme è cessato. Inizia l'esodo estivo per il fine settimana di domani e fine luglio, previsto il bollino rosso, il picco si raggiungerà l'8 agosto e oggi sciopero dei trasporti in Liguria. Prima preghiera islamica nell'ex basilica di Santa Sofia a Istanbul, grande richiamo di fedeli, Erdogan in prima fila. Calcio, spadafora da settembre, stadi aperti ai tifosi e stasera si gioca Milan-Atalanta. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati di nuovo con il punto delle notizie di metà giornata. Cominciamo subito dal violento nubifragio che all'alba di questa mattina si è abbattuto sulla città di Milano. Come spesso in queste occasioni è esondato il Seveso ma poi anche il Landro. Fortunatamente l'allarme è cessato, ma ci sono stati per tutta la mattinata disagi alla circolazione e agli abitanti della zona nord di Milano. Sentiamo. Milano allagata, una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta dalle prime ore dell'alba sulla Lombardia, creando disagi e allagamenti ovunque. A Milano, nella zona nord, sottopassi sott'acqua e scantinati inagibili. Alle 7:10 è esondato il fiume Seveso, bloccando la circolazione dei tram nel quartiere Niguarda, in funzione autobus sostitutivi. Si attende a breve l'ondata di piena. Tra Bovise e Cadorna bloccata per alcune ore la circolazione del passante ferroviario. Grandine e allagamenti anche a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Resta critica la situazione del fiume Lambro. Non è andata meglio nel resto della Lombardia. All'aeroporto di Orio al Serio il maltempo ha danneggiato la copertura del tetto, causando infiltrazioni d'acqua nel terminal. Completamente allagato il quartiere Colognola di Bergamo. Forti grandinate e raffiche di vento su tutta la Brianza, a Varese, chicchi di ghiaccio delle dimensioni di uova. Marco Oliva, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. E su quanto accaduto abbiamo chiesto un commento al ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che poi sarà anche nostro ospite alle 13:30. Sentiamo che cosa ci ha detto. Il problema delle esondazioni è, ahimè, spesso, quasi sempre collegato a un problema di idrogeologia dei suoli. Noi abbiamo un paese fragilissimo, l'80% della nostra superficie è aggredita da problemi idrogeologici. Ricordiamo Palermo la settimana scorsa, adesso Milano. E abbiamo storia in questo senso. Quindi il dissesto idrogeologico, la cantieristica verde per aggredire questa problematica è non solo presente, abbiamo i fondi, abbiamo le progettazioni, noi chiediamo ai comuni e alle regioni di attivare i cantieri, perché le progettazioni che sono depositate al nostro Ministero dell'Ambiente sono seguitissime. Inizia di fatto in queste ore l'esodo estivo, la giornata da bollino nero sulle autostrade italiane è previsto per l'8 di agosto e lo prevede il piano servizi per l'esodo estivo del 2020 di Viabilità Italia. I dati del traffico riferiti agli ultimi settimane suggeriscono di invece di indicare con bollino rosso il fine settimana che si apre oggi dal 24 al 26 luglio e poi quello del 31 luglio, 2 agosto prossimi. Intanto sempre oggi in Liguria sciopero del settore dei trasporti alle prese con i problemi causati dai lavori, come sapete, di manutenzione lungo la rete autostradale. La ministra De Micheli ha promesso ieri la chiusura dei cantieri già il 28 luglio. Mentre sul nodo autostradale genovese un'altra giornata di code e di disagi per i cantieri nelle gallerie, in città va in scena la protesta dei lavoratori dei trasporti che segue quella organizzata martedì da 25 sigle in rappresentanza delle categorie datoriali. Sciopero di bus e treni, fermi gli addetti della logistica. Un corteo ha raggiunto la prefettura, una carovana di tir ha percorso le strade del centro. Genova e tutta la Liguria sono stremate dalle conseguenze del caos sulle autostrade. che ha avuto ricadute pesantissime sul tessuto economico e produttivo dei territori, dal turismo alla portualità. Laura Andrei, Filt CGL. Chiediamo alla Regione, al Ministero dei Trasporti e Autostrade di liberare la Liguria, di sottrarre dalla campagna elettorale questo tema che è importante per tutta la Regione e il suo futuro, di sedersi attorno al tavolo e trovare delle soluzioni in sicurezza alla mobilità autostradale, alla viabilità in generale e al futuro delle infrastrutture della nostra Regione. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Ora la cronaca, 24 ore dalla clamorosa inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una caserma dei Carabinieri e all'arresto di 6 militari per reati gravissimi a Piacenza. Emerge, le inchieste vanno avanti ed emerge anche che questa stessa stazione dei Carabinieri, sequestrata in questo momento nel 2018, ricevette addirittura un encomio solenne dalla Presidenza della Repubblica. Passati invece i festeggiamenti per l'accordo raggiunto a Bruxelles, adesso siamo alla politica, parliamo del piano di aiuti che con il Recovery Fund per l'Italia dovrebbe valere fino a 200 miliardi di euro. Il governo adesso è alle prese con il nodo governance. Chi dovrà gestire questi fondi? Due le ipotesi in campo, una commissione bicamerale oppure un organo intergovernativo. Mentre resta ancora sul tappeto la questione del MES, soldi disponibili subito per rinforzare il sistema sanitario, soldi chiesti dal ministro Speranza. Confronto aperto tra le forze politiche sulla gestione degli aiuti del Recovery Fund. Il Premier Conte insiste per la creazione di una task force a Palazzo Chigi, ma nella maggioranza il Partito Democratico chiede invece l'istituzione di una commissione bicamerale, come vorrebbe anche Forza Italia. A dividere la maggioranza è anche il ricorso al MES. I 5 Stelle ribadiscono il loro no anche dopo le preoccupazioni fatte filtrare dal Tesoro, secondo cui senza quelle risorse ci sarebbero tensioni di cassa. Il commissario europeo all'economia Gentiloni sottolinea che gli aiuti del Recovery Fund arriveranno solo nella seconda metà del 2021, mentre i 37 miliardi del MES saranno subito disponibili e per questo invita l'Italia ad approfittarne. Al centro del dibattito è anche il nuovo scostamento di bilancio da 25 miliardi che servirà a finanziare il decreto agosto e che dovrà essere approvato dal Parlamento con una maggioranza qualificata. Il centrodestra fa sapere che lo voterà solo se saranno accolte le sue proposte a partire dal rinvio delle scadenze fiscali di settembre. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E il governo, intanto, a quanto annunciato ieri dalla ministra Nunzia Catalfo, approverà un nuovo pacchetto di misure per il lavoro, dallo smart working agli ammortizzatori sociali fino agli incentivi per i contratti a tempo indeterminato. Sono strettissimi i tempi, secondo i sindacati, per mettere a terra le misure annunciate ieri nell'incontro sugli ammortizzatori dalla ministra del lavoro Nunzia Catalfo, azioni immediate che il governo finanzierà con i 25 miliardi della manovra d'agosto. Nel pacchetto dovrebbe rientrare anche la prosecuzione del blocco dei licenziamenti, con eccezioni come la cessazione di attività, blocco che altrimenti scadrebbe il 17 di agosto, e insieme di pari passo si prevede anche la proroga della cassa integrazione Covid, tutta a carico dello Stato, di ulteriori 18 settimane fino alla fine dell'anno, e per accompagnare la ripresa incentivi sotto forma di taglio dei contributi per chi riporterà i dipendenti al lavoro dalla CIG o per chi farà nuove assunzioni. Sono necessari anche altri sostegni e rapidità, spiega Tania Sacchetti, segretaria confederale CGIL. Ci siano ulteriori proroghe sia per il tema dell'indennità, a partire da quelli più precari, più deboli, le partite IVA monocommittenza, le collaborazioni coordinate, e naturalmente anche alcuni interventi di proroga della disoccupazione, quindi della NASPI piuttosto che della DISCOL, oltre che a degli interventi sui tempi determinati. Noi speriamo entro la fine del mese di luglio, al massimo i primi di agosto. Le misure decise nei precedenti decreti per molti lavoratori hanno già esaurito la loro efficacia. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora all'estero, si tiene oggi la prima preghiera islamica a Santa Sofia dopo la riconversione 2 settimane fa da museo in moschea di quello che era il monumento simbolo di Istanbul. In prima fila anche il presidente Erdogan, che aveva detto: trasformare Santa Sofia in una moschea era il nostro sogno più grande. Moltissimi i fedeli accorsi anche nella piazza che ospita l'ex basilica, ex museo, appunto adesso tornato a moschea. Ne parleremo ancora più avanti in collegamento con Istanbul. Però invece il punto sull'andamento dell'epidemia di Covid in Italia e nel mondo. Nuovo record di casi in Argentina, impennata anche per quanto riguarda l'Europa, in Bulgaria. Il Covid-19 batte nuovi record di diffusione nel mondo, arrivando a superare i 49.000 nuovi casi giornalieri in India. Il paese asiatico ha superato il 1.200.000 contagi alle spalle di Stati Uniti e Brasile. Il numero di vittime è di oltre 700 al giorno, più di 176.000 vittime in America Latina, la metà delle quali in Brasile, con un record di casi in Argentina, dove le autorità sanitarie sono preoccupate per l'evoluzione della curva e per l'indice di occupazione dei letti nelle unità di rianimazione delle cliniche private. L'Australia non abbassa la guardia nello stato di Victoria, dove sono stati registrati 300 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Paura anche a Tokyo, dove i contagi giornalieri nella sola capitale hanno superato i 300. Il Sudafrica ha chiuso le scuole per un mese, dopo aver superato i 400.000 casi totali. In Spagna, uno dei paesi più sotto osservazione in Europa, 6 comunità autonome hanno chiuso o posto forti limitazioni al settore del divertimento notturno, discoteche e sale da ballo. Questo dopo l'esplosione di 100 nuovi casi riconducibili a una discoteca di Cordova. Da oggi scatta l'obbligo in Gran Bretagna di indossare mascherine nei negozi. In Francia, infine, dopo i 1.000 contagi giornalieri, il governo valuta la richiusura di alcune frontiere, in particolare con la Spagna. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport, il calcio. A settembre tifosi di nuovo allo stadio, non riempiendoli come prima ma con misure di sicurezza diverse, lo ha detto poco fa il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Questa è una notizia, Carlo Genta, e ciao Alessio. Ciao Carlo. Notizia sono anche le partite che si giocano in queste ore, ieri, oggi, domani. Beh, soprattutto quella di ieri sera, anzi lasciami invitare subito gli ascoltatori via WhatsApp vocale, così magari cominciano a mandarli 349-238-6666 per commentare la Juventus che ha fallito il primo match ball e anche in malo modo. Vincendo a Udine ieri sera avrebbe festeggiato il nono scudetto consecutivo, invece no, passato in vantaggio con De Ligt e poi rimontata sull'1-1 dall'Udinese, che nel finale, nei minuti di recupero, ha segnato con un bel gol di Fofana in totale contropiede, fuga per il successo che vale per l'Udinese la salvezza e per la Juventus un bel po' di critiche, perché è vero che potrà vincere lo scudetto battendo la Sampdoria domenica a Torino, però immagino che anche gli inseguitori, soprattutto i tifosi dell'Inter, saranno lì a mangiarsi le mani, perché al sapore di un duello ravvicinato un po' buttato per gli altri. Eh sì, un finale così mesto per la Juve fa pensare che se qualcuno si fosse mosso prima infatti, cose potevano finire diversamente. Ma anche e soprattutto come atteggiamento, perché certo, non ha convinto tantissimo l'atteggiamento dell'Inter, oltre che i risultati. Se non avesse pareggiato le ultime due partite, a Roma con la Roma, in casa con la Fiorentina, e poi avesse battuto il Genoa, è chiaro che ci sono un sacco di se e di ma, di condizionali, però poteva vivere un sabato notte a pari punti con la Juventus, con tre vittorie. Grazie Carlo, tutte chiacchiere che continuerete dopo il GR delle 14 con tutti convocati. Noi invece adesso facciamo il break consueto, torniamo tra poco, andremo in collegamento con Istanbul con un corrispondente per vedere come sta andando la prima giornata di preghiera in quella che è stata per secoli una basilica, la più importante della cristianità, divenuta poi museo. E adesso, per volontà di Erdogan, tornata ad essere una moschea. C'è il pienone di fedeli, cercheremo anche di capire che cosa rappresenta per la Turchia di oggi questa svolta nel segno della reislamizzazione. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Nubifragio a Milano, esondano il Seveso e il Lambro, disagi, poi allarme cessato. Sciopero dei trasporti in Liguria, domani inizia l'esodo estivo, bollino rosso nel weekend. Prima preghiera islamica nell'ex basilica di Santa Sofia a Istanbul, Erdogan in prima fila. Calcio, Spadafora, da settembre stadi di nuovo aperti ai tifosi. Stasera si gioca Milan-Atalanta. Cresce 17 minuti, cari ascoltatori, adesso cerchiamo di avvicinarci a questo evento anche fisicamente. Parliamo della prima preghiera in quella che è stata per secoli una basilica, poi un museo e adesso torna ad essere moschea. Parliamo di Santa Sofia a Istanbul e ci avviciniamo grazie al collega corrispondente da Istanbul per l'agenzia giornalistica italiana, Giuseppe Di Donna. Ciao Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Allora, una piccola premessa: Giuseppe Di Donna, oltre che un cronista, è anche un conoscitore, perché vive in Turchia da diversi anni ed è appunto una persona, un conoscitore. Ci affidiamo anche alle tue parole per cercare di, al di là di insomma, tante cose che sono state dette, tante facili verità. Prima di tutto il racconto di questa giornata, come sta andando? Le dichiarazioni, gli umori, la gente? Beh, da ieri la città è in fibrillazione, gli accessi principali verso la penisola storica di Sultanahmet, dove appunto si trova Santa Sofia, sono stati chiusi, le fermate degli autobus e della metro serrate, anche quelle sospese. Si è cercato di gestire quantomeno questo momento di grande afflusso di gente e cercare di renderlo compatibile con una epidemia di coronavirus che è ancora in Turchia, non è del tutto sconfitta, insomma si viaggia da una settimana sui 900 contagi al giorno. Quindi sono state predisposte 5 aree di preghiera tra Santa Sofia e la Moschea Blu, uomini e donne ovviamente rigorosamente separati, un apparato di sicurezza imponente, enorme, anche per consentire appunto l'arrivo del presidente e dei ministri che sono appunto in prima linea. C'è da dire che dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il decreto che aveva reso Santa Sofia una moschea, il decreto del 1934, la sentenza è arrivata il 10 luglio di quest'anno, sì. Dopo quell'episodio la piazza antistante Santa Sofia è stata chiusa dalla polizia, il museo è stato chiuso e sono partiti i preparativi per questo giorno. 24 luglio è anniversario del trattato di Losanna che fece a pezzi l'impero ottomano. Non un caso. Quindi ecco. non è una giornata scelta a caso. La sensazione, chiaramente questa è un'operazione anche molto dal sapore molto mediatico per Erdogan, ha detto è stato il sogno della nostra gioventù questo. La sensazione è che le persone accorse siano lì perché realmente vivono questo come un qualche cosa di importante, o c'è come dire la gran cassa in qualche modo anche presidenziale, istituzionale, è una sorta anche di clac per questa giornata? Beh, c'è un forte sentimento nazionalista, ecco, che si può descrivere in due parole. Il successo di Erdogan è stato quello un po' di fondere nazionalismo e religione in Turchia. Questo è un esempio tipico. Il 29 maggio scorso c'era stata una piccola preghiera, anche in piena crisi coronavirus, una piccolissima preghiera con Erdogan collegato in video per celebrare l'anniversario della conquista di Costantinopoli da parte delle truppe ottomane nel 1453. Questa piccola preghiera all'interno della moschea, all'interno di Santa Sofia, aveva scatenato le proteste soprattutto della Grecia, che si era rivolta all'UNESCO e aveva protestato anche in sede europea. Da lì è partito un tran tran mediatico sui social media con l'hashtag Santa Sofia sarà di nuovo moschea, che ha dominato per giorni e giorni, e lì la politica si è resa conto che ci poteva essere un vantaggio, un vantaggio di consenso. Senti, Giuseppe, ti voglio chiedere un'ultima cosa. Giuseppe Di Donna, corrispondente AGI da Istanbul, un po' una valutazione più generale, se possibile, anche in questi minuti in cui tu sei proprio lì in mezzo alla folla, però così anche a sensazioni, in poche parole, è questo secondo te il gesto estremo di un capo come Erdogan che cerca, come stavi raccontando tu, appoggi e consensi elettorali, oppure anche in una fase della sua carriera non brillantissima, perché ha avuto insuccessi elettorali a Istanbul, insomma la sua carriera potrebbe prima o poi anche volgere al termine, oppure è invece il culmine di un processo reale nel paese di reislamizzazione? Per quale delle due ipotesi protendi? Guardi, onestamente parlare di reislamizzazione io la vedo un po' come una forzatura. Diciamo che Erdogan ha portato alla luce quella componente religiosa del paese che per anni è stata un po' negletta nei decenni dalla nascita della Repubblica fino appunto all'avvento di Erdogan al potere. Erdogan stesso nel suo primo partito, il partito da cui lui proveniva, aveva subito una sorta di persecuzione giudiziaria, scontando certo. anche più di un anno di carcere. Quindi l'arrivo di Erdogan al potere è stato l'inizio della riconquista del paese da parte di una parte della popolazione che è stata abbastanza messa in disparte per decenni. Quella di Santa Sofia era il sogno del mentore di Erdogan, invece di Erbakan, tornare a pregare a Santa Sofia. Quindi io la vedo più come un culmine. Erdogan ormai ha fatto il suo ventennio e anche più del suo ventennio, si avvia agli ultimi anni. Quello che si può dire è che una certa parte del paese con lui ha trovato una gran cassa per far sentire la propria voce. Grazie Giuseppe Di Donna, grazie da Istanbul. Naturalmente poi le strategie, insomma, le analisi su questa situazione si spenderanno. Era interessante anche sentire a caldo le parole di un cronista che vive lì da alcuni anni. Giuseppe Di Donna, appunto. Adesso invece apriamo un'altra piccola pagina, l'anticipazione dell'Euroreportage di domani, che fa il punto su Brexit, 8:15 su Radio 24, ed è un'intervista di Sergio Nava ad Antonio Villafranca, coordinatore presso l'ISPI per quanto riguarda il centro Europa. Sentiamo. Brexit. Non è un segreto che Trump ha fatto del divide et impera in Europa, uno delle sue strategie nei confronti del vecchio continente, e quindi ha appoggiato direttamente e apertamente Brexit e ha proposto a Johnson di fare un accordo di libero scambio in tempi brevi con la Gran Bretagna, cosa che in realtà è tutt'altro che facile. E quindi ovviamente nel caso ci fosse un cambio alla presidenza degli Stati Uniti, la posizione di Johnson sarebbe più complicata, perché non necessariamente il nuovo inquilino della Casa Bianca potrebbe condividere, anzi probabilmente non lo condividerebbe, appunto questo appoggio nei confronti di Brexit. :13:24. Allora, ci siamo sentiti due giorni fa e abbiamo lasciato una sorta di eredità per l'estate per quanto riguarda la programmazione di Radio 24 con il programma estivo di Giampaolo Musumeci. Giampaolo, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, grazie mille perché di avermi reinvitato. Un'altra notizia che ti riguarda, e non potevamo non essere noi a darne conto. Esce domani il tuo libro, che è uno spin-off cartaceo, diciamo così, di quella che era invece l'altro programma che avevi fatto il sabato, sì. Io sono il cattivo. Sì, ma programma, appunto, anche questa è una coproduzione Radio 24 Audible. Abbiamo raccontato in un anno 42 cattivi. Ogni sabato abbiamo cercato di sedurre gli ascoltatori sfrigolando il loro lato più oscuro. Quindi 42 grandi figure criminali del mondo, da Stephen Paddock, mass shooter Las Vegas qualche anno fa, al Baghdadi, il califfo. Tra l'altro, andando in onda dopo si può fare. Esattamente, cioè, quindi era un contrapasso pazzesco. Era un contrapasso. Se si può fare, poi c'erano queste omicidi. In una mattinata avevate tutto il bene e tutto il male. Esattamente. Allora, non contenti, abbiamo deciso su questi 42 cattivi di lavorare un po', fare un po' una centrifuga, una sintesi, raccoglierne 15, quelli forse più forti, più cattivi appunto, e fare questo, spero, regalo apprezzato. Non aspettatevi necessariamente che siano personaggi conosciuti, c'è Bin Laden, vero, naturalmente c'è al-Baghdadi, però sì, ci sono anche nomi che ai più non dicono niente, perché è così, no? Sì, perché a volte grandi figure criminali in realtà non guadagnano i favori della cronaca. Te ne cito uno su tutti, che ho trovato una delle figure più intriganti, Vassilis Paleokostas, detto il Robin Hood dei greci, ed era un ladro che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Detta così sembra un buono, non sembra un cattivo, in realtà aveva una raffinatissima alchimia, cioè si faceva gli affari suoi, ben inteso, è diventato milionario, peraltro è uccel di bosco adesso, la polizia greca non è mai riuscita a trovarlo, si dica sia in Bulgaria, qualcuno dice in Olanda, ha fatto rapine e estorsioni per milioni e milioni di euro, non è mai mai stato preso, perché riusciva a crearsi una sorta di stato sociale parallelo, per cui nelle montagne della Tessaglia, dove lui si è rifugiato per anni, la gente gli voleva così bene che lo ha sempre protetto. Credo che sia una figura emblematica per spiegare questa galleria che abbiamo creato di Io sono il cattivo, cioè il male non è mai al tutto male, come diceva qualcuno. Infatti volevo chiederti se c'era uno di questi cattivi, ma forse mi hai bruciato la domanda, che a cui ti sei in qualche modo, non dico affezionato, ma che ritieni che diciamo fosse cattivo non al 100%, no? Perché la cattiveria è un concetto anche difficile da accettare a volte. È molto uno difficile. È così per reazioni, perché è stato da bambino vessato, perché invece... È un territorio veramente difficile da esplorare, perché qua invece ti cercherò di sorprenderti, perché la figura a cui sono più legato paradossalmente è al-Baghdadi, perché in realtà al-Baghdadi, il califfo, ha delle sfumature incredibili in sé. E lui ha fatto quello che ha fatto delle cose ignominiose, ha ucciso lo Stato Islamico, ma lo ha fatto per pura ideologia. Lui si è riletto il Corano in una versione assolutamente arcaica, anche un po' storpiata evidentemente, ma ci credeva veramente, cioè nel nome di un'idea ha fatto qualcosa di veramente incredibile, in mezzo ha fatto delle cose pazzesche, ignominiose, però ci credeva, e credo che questo sia una delle molle interessanti per analizzare i grandi criminali. Per chiudere, Giampaolo, io sono il cattivo, qual è il format che hai scelto, diciamo, in questo passaggio dalla radio alla carta? Come vengono raccontati, in che modo, che tipo di strategia narrativa? Ma allora, diciamo che lo stile di scrittura è stato leggermente cambiato rispetto alla radio, perché evidentemente è molto più discorsivo quello radiofonico, anche se il podcast si avvicina molto all'editoria, mettiamo così, letteratura mi sembra troppo autoincensante. E poi ho cercato di fare delle aggiunte per tracciare un filo rosso che lega, e c'è, attenzione, Steven Paddock, al-Baghdadi, Andres Breivik, Rocco Morabito, Vasilis Paleokostas, tutte queste grandi figure di criminali hanno qualcosa in comune. Naturalmente non ve lo dico, perché sennò nessuno si compra il libro. Io sono il cattivo, in edicola domani. Grazie Giampaolo. Grazie a voi. E complimenti per questo lavoro. 13:28 minuti, è il momento di fare la pausa. Torniamo tra pochissimo. Se volete, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Nubifragio a Milano, esondano il Seveso e il Lambro, disagi ma poi allarme cessato. Sciopero dei trasporti oggi in Liguria e domani inizia l'esodo estivo, previsto il bollino rosso. Prima preghiera islamica nell'ex basilica di Santa Sofia a Istanbul, grande richiamo di fedeli, Erdogan in prima fila. Al via il progetto di recupero delle ecoballe di plastica in fondo al mare dell'Elba da 5 anni, ne parliamo tra poco col ministro dell'Ambiente Costa. Calcio, spada fora da settembre, di nuovo il pubblico negli stadi e stasera si gioca Milan-Atalanta. ...13:34, cari ascoltatori, eccoci qua, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Vi leggo una notizia che farà piacere a chi si trova al mare in questi giorni o sta per andarci, ma farà piacere a tutti in realtà, perché i mari italiani risultano essere particolarmente limpidi dopo il periodo di lockdown e in una situazione nel complesso stabile per quanto riguarda le sostanze legate alle attività produttive. È il primo quadro che emerge dal monitoraggio straordinario effettuato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, ma anche in collaborazione col Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Allora, è con noi il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie di avermi invitato. Allora, per raccontare una buona notizia, speriamo, e forse anche magari un aggiornamento sul Green New Deal italiano, in chiave italiana. Ministro, la storia a cui, forse è una storia a lieto fine, è questa. C'è un carico di rifiuti di plastica in fondo ai fondali del mare nelle zone dell'arcipelago toscano da 5 anni attorno all'isola d'Elba, perché è un carico che era fuoriuscito da una nave che trasportava questi rifiuti di plastica, questo CSS, e che adesso si è deciso di cercare di recuperare con una missione importante che avrà anche a capo il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. 5 anni però, Ministro, per arrivarci. Come mai così tanto? Beh, io posso rispondere da quando sono ministro, che sono 2 anni, precedenti non mi permetto, non sarebbe corretto, però faccio questo tipo di considerazione, che è stata per me una priorità non appena diventato ministro e ovviamente informato della vicenda. Quindi la prima cosa che il Ministero dell'Ambiente fa qual è? Quello di pianificare, programmare, individuare queste all'epoca 56 grandi balle di rifiuti, fondamentalmente plastici, dal peso di oltre una tonnellata ciascuna e però in fondo al mare, ok, quindi dove? Solo nel Golfo di Follonica andavano individuati. Il Ministero dell'Ambiente in poco più di un anno ha fatto la mappatura, sì, fatto tutto il lavoro, lo porta in Protezione Civile. Perché? Perché il lavoro di base andava fatto, adesso occorreva la Protezione Civile per tirarle su. Avete individuato dove si trovano effettivamente? Sì, intanto 16 sono state recuperate, e qua mi piace ringraziare non solo la Capitaneria di Porto, sì, che hanno fatto un lavoro splendido, ma anche i pescatori della zona, perché alcune erano anche quasi spiaggiate, e loro, i pescatori, proprio per amore del proprio territorio, insieme alle Capitanerie di Porto, le hanno recuperate, e 16 quindi sono andate recuperate. Altre 40 sono rimaste per circa 60 tonnellate, lei deve pensare che sono depositate a oltre 50 metri di profondità su una base fangosa, quindi con scarsa visibilità. Poi, e anche col rischio che possano rilasciare poi nel tempo, sono già trascorsi 5 anni, tutte quelle microplastiche che poi sappiamo, bravo, che sono il vero problema. Esatto, che vanno non solo poi a inquinare il mare in termini, diciamo, generici, ma ce lo ritroviamo sulla spiaggia, quindi su un golfo così bello aggredito da queste plastiche, ma poi possono ricadere nella cosiddetta catena trofico-alimentare, sì, cioè praticamente sì, essere mangiate dai, sì, pesci in sostanza, e ce le ritroviamo in una condizione di aggressione ecologica ancora maggiore. E questo è stata la grande conquista, cioè aver fatto un lavoro preliminare serio e adesso un lavoro di intervento operativo. Ecco, speriamo che davvero poi anche nel giro di poco tempo si riesca. Senta, Ministro Costa, queste ecoballe così definite sono di CSS, ci spiega che cos'è? Perché questa è una frazione di rifiuto indifferenziato che può essere usata anche come combustibile, che noi paghiamo per esportare, in questo caso doveva andare in Bulgaria il carico, sì, invece potremmo utilizzare anche noi come combustibile e non lo facciamo, come mai? No, in realtà si fa a determinate condizioni, anche in condizioni di sicurezza, e che alcuni impianti, cioè tutti gli impianti sono in una sorta di overbooking e quindi lo si dà anche all'estero, ma tra l'altro lo si dà dal punto di vista economico con un ritorno a vantaggio del mondo imprenditoriale, quindi non si paga in questo caso. In questo caso noi non pagavamo per portare in Bulgaria queste ecoballe? Ma no, perché si tratta di, appunto, come di ha detto lei, combustibile. Cosa che serve, però anche altrove, i costi del viaggio, no? I costi dei mancati approvvigionamenti, anche perché naturalmente sono materiali su cui poi bisogna vedere le emissioni, ci sono preoccupazioni ambientali, certo, però noi in Italia bruciamo ancora il carbone, pensiamo all'Ilva, forse queste, anzi sicuramente queste ecoballe come combustibile sarebbero meno inquinanti, non c'è da fare uno scatto in avanti in Italia da questo punto di vista, secondo lei? Beh, guardi, questo scatto fortunatamente non solo c'è da farlo ed è giusto riconoscerlo, ma principalmente è stato già pianificato e definito con norme, quindi non è qualcosa del faremo, vedremo, vi prometto che, qualcosa di già definito al punto tale che, faccio un esempio, le centrali a carbone entro il 2025 già per legge devono chiudere in quanto a produzione a carbone, ovviamente, cioè devono riconvertirsi nella cosiddetta transizione energetica, per cui è già norma dello Stato questo. Aggiungo per esempio che tutto il lavoro che si sta costruendo insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Unione Europea attraverso un fondo europeo che si chiama Just Transition Fund, sì, per la decarbonizzazione, per esempio di chi? di Ilva, portarla verso l'idrogeno, per esempio. Ma l'utilizzo invece di questo CSS, che io so essere anche abbastanza copioso, disponibile in Italia e non costa nulla, perché anzi è un prodotto dei nostri rifiuti urbani, c'è la possibilità di usarlo come combustibile più di quanto non si sia fatto fino ad oggi, secondo lei? Già si sta utilizzando molto, ma lo scopo che noi ci prefiggiamo è, indubbiamente si sta utilizzando, fa parte di quello che si chiama pacchetto economia circolare, che tra l'altro vede le tecnologie ambientali italiane le migliori al mondo, e quindi da questo punto di vista noi siamo veramente dei player mondiali, però c'è da fare un ragionamento ancora prima di utilizzarle, ma di ridurre i rifiuti. Questo per me è l'elemento vincente. Questo è la parte iniziale della piramide famosa, dei rifiuti. Bisogna produrne possibilmente di meno. Ministro Costa, si sta facendo, c'è una riduzione fortunatamente, e si sta facendo non solo con norme, ma anche con incentivazioni. Penso al credito d'imposta dato alle aziende che producono con meno imballaggio, che è una norma, una legge che il Ministero dell'Ambiente ha voluto nella norma cosiddetta finanziaria. Un'ultima cosa, Ministro Costa, a proposito del Recovery Fund di cui si è parlato tanto questa settimana, mi dice uno o due progetti secchi su cui il Ministero dell'Ambiente chiederà che possano essere investiti tanti fondi per queste sostenibilità? Guardi, le dico, noi abbiamo un obiettivo come pianeta, come Europa e come Italia, cioè nelle tre declinazioni. L'obiettivo è uno tra i più importanti, la cosiddetta transizione energetica ed ecologica, cioè passare dal carbon fossile, tanto per essere chiari, all'energia pulita. Penso all'elettrico adesso, penso successivamente all'idrogeno, ma prodotti provenienti da energie rinnovabili. Bene, aiutiamola. Allora, le faccio due o tre esempi per essere concreti, perché la visione è quella, la decarbonizzazione, però poi ci dobbiamo arrivare con cose concrete. Per esempio, immaginiamo che tutti quelli che fanno uso di energie rinnovabili possono avere, per esempio, un cuneo fiscale ambientale, che tradotto vuol dire pagare il costo del lavoro di meno, che significa quindi assumere giovani italiani sul territorio italiano che vanno verso la decarbonizzazione, cioè che aiutano con le loro competenze in quella direzione. È un meccanismo un po' complesso, però si possono usare i fondi europei per fare questo? Sì. Si possono fare i fondi europei, perché il piano, il cosiddetto PNIEC si chiama, Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, firmato tra l'altro dal Ministro dell'Ambiente, depositato in Europa, già considerato di un ottimo livello europeo, ma in progress, perché appunto va nella direzione che ci siamo detti, è nell'ambito del perimetro perfettamente stabilito dall'Unione Europea. Il Recovery Fund, che si deve trasformare in un piano, cioè il Recovery Plan adesso, secondo me quello lo può considerare, come può considerare per esempio una sorta di ingolosimento di tutte le aziende che possono avere dei benefit nel momento in cui fanno transizione energetica e transizione ecologica, che è il modo reale, concreto per proteggere il pianeta e per farlo diventare veramente green. Va bene, quindi incentivi alle aziende anche con questi fondi che arriveranno all'Europa. Grazie al ministro Sergio Costa, grazie per essere stato con noi. E va bene, vedremo se questo piano di incentivi green alle aziende funzionerà per quanto riguarda i fondi europei, perché sappiamo che per abbassare le tasse i fondi europei non vanno bene, ci vogliono progetti concreti su cui investire e poi possibilmente anche spendere. 13.44, torniamo tra un attimo insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it.